State viaggiando a 45 gradi verso nord-est, ma la capitale si trova a 30 gradi nord. Di quanti gradi dovete cambiare rotta? E in quale direzione?